Il punto di Stefano Folli. Per venire a capo della vicenda cancellieri, il Premier Letta ha dovuto mettere in campo se stesso, cioè chiedere la fiducia al suo partito, il PD, il quale gliel'ha data a denti stretti, diviso al suo interno e con Renzi che ormai fa il mattatore sul palcoscenico. Un mattatore che aveva promesso fuoco e fiamme e poi ha dovuto batterne in ritirata quando è apparso chiaro, e chi poteva dubitarne, che il Presidente del Consiglio non avrebbe sacrificato il suo ministro per ritrovarsi con un governo destabilizzato e sull'orlo della crisi. La vicenda si chiude dunque, ma lascia dietro di sé una sensazione amara. Fra breve Renzi sarà il segretario del PD e abbiamo capito che non sarà mai un alleato di Letta. Ieri sera il conflitto non è esploso, ma ci si è andati vicini. Il rischio è che si riproponga ogni pretesto, indebolendo un governo che invece avrebbe bisogno di tanta energia.